si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Prossimo anno. Noi ce l'abbiamo nel 18, no? Il presidente. Noi l'abbiamo nel 18. Comunque vada referendum, ce l'abbiamo nel 18. Ce l'abbiamo nel 18, sì. Chi vota sì, vota per tagliare le poltrone. Chi vota no, non è che vota per l'invasione delle camere da letto. Mantiene il Parlamento più numeroso e più costoso della storia dell'Occidente. Ok. Chi vota sì, semplifica il paese. Chi vota no, si tiene il paese che c'ha ora. Buonasera a tutti cari ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, il traghetto, chiamiamolo così, il traghetto dell'estate che vi accompagna. Non ci sono più le Olimpiadi per un po', non parleremo più di medaglie e di storie di atleti bellissime, le abbiamo viste raccontate a quest'ora su Radio 24 per 3 settimane, adesso noi vi traghettiamo, usiamo questa parola estiva, fino alla ripresa del palinsesto autunnale, cioè tra poco più di 2 settimane di Radio 24. Buonasera da me, ma anche dalla redazione, Cristian Goldoni, Alessandro Longoni e Giovanni Melchiori, nonché Roberta Frisoni in regia. Stiamo insieme fino alle 20, aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24 per commentare l'attualità, ma anche per raccontare i vostri racconti dalle vacanze, perché insomma siamo ancora in, per fortuna vostra che siete ancora o state magari adesso in grande ritardo per partire per qualche giorno di vacanza, i vostri racconti, anche i piccoli disagi, le code ai traghetti, quando arrivi che ti hanno cambiato camera all'hotel, al residence, quelle cose che poi quando torni le racconti, ti ci fai su una risata, fanno parte della vacanza, luoghi scoperti, si possono ancora scoprire dei luoghi meravigliosi. E vi do una notizia, si possono anche fare le foto ai paesaggi senza farsi il selfie magari, oppure se vi siete innamorati, fidanzati, 800 24 00 24, anche stasera il racconto più originale che ci piace di più a giudizio insindacabile nostro si porta a casa i biglietti della mostra di Miro a Torino, credo che sia, non ricordo, comunque estraiamo dal scatolone delle mostre organizzate dal gruppo 24 ore, ma... Torniamo a noi, 800 24 00 24, risentiamo Renzi che dice elezioni nel 2018. Hollande e la Merkel hanno le elezioni il prossimo anno, noi ce l'abbiamo nel 18, no, il Presidente? Noi l'abbiamo nel 18. Comunque vada referendum, ce l'abbiamo nel 18. Ce l'abbiamo nel 18, sì. Ce l'abbiamo nel 18, sembra quasi una minaccia. Ma come? Aveva detto che se perdeva il referendum se ne andava a casa, o ci ricordiamo male? Sentiamolo. Facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Quindi niente, adesso è cambiato tutto. Se perde il referendum non smette di fare politica almeno per un altro anno e ci porta alle elezioni nel 2018. Questo il premier Matteo Renzi. Ce l'abbiamo su D'Alema e Berlusconi? Se D'Alema avesse messo un decimo del tempo che ha messo per attaccare me, nell'attaccare Berlusconi quando guidava il partito, non avremmo avuto quel sistema lì. E non è un caso che D'Alema sia in compagnia di Berlusconi, di Grillo e di Salvini. E si sono ritrovati. Allora, il manifesto di Ventotene, se uno fa la fatica di leggerlo, trova delle cose da farsi rizzare i capelli in testa. Cito dal manifesto di Ventotene: la metodologia politica democratica sarà un peso morto. Ed è esattamente quello che è successo ora in questa Europa, dove la democrazia non esiste. La Spagna non ha un governo da secoli, eppure va avanti tranquillamente. Perché? Perché i governi nazionali non contano più niente, comandano un'elite di euroburocrati con la banca centrale che decidono i tassi di interesse, decidono dove spostare miliardi che stampano loro, eppure il popolo non c'entra più. La vicenda della bambina sottratta per pochi minuti, forse per pochi secondi, ai suoi genitori sulla spiaggia di Ragusa da un indiano 43enne fermato poi dopo dalla polizia perché i genitori lo hanno rincorso mentre lui se ne stava andando con la bambina in braccio, è stato rilasciato, perché non ci sono indizi pesanti o elementi che, come spiega il procuratore, sentiamolo, che potessero giustificare il fermo di questo che, stando ai racconti di chi stava sulla spiaggia, è a tutti gli effetti una persona che ha tentato una sorta di rapimento. Il fatto era talmente modesto, sebbene spiacevole, inquietante, questo si è tenuto in braccio questo bambino per meno di un minuto, si ha provato ad allontanarsi, il padre l'ha seguito, a un certo punto se l'è fatto dare, il tutto, ripeto, 45 secondi e 10 metri. Volevo solo dire una cosa, che ieri siamo stati risentiti, speranzosi che questa persona venisse, ma anche solo espulso dall'Italia, perché comunque ieri si ritrovava già scogliti. E voglio solo dire che io vomito davanti alla legge italiana, perché io ho compreso che è stata applicata proprio la legge nei minimi particolari, e oggi ci è stato detto che non ha concluso il reato, perché lui si doveva allontanare dalla nostra vista, lo dovevamo perdere di vista per poter dire che si stava portando via la nostra bambina. Questa era la mamma. Ora la vicenda della spiaggia di Ragusa deve essere ancora forse capita bene, merita un approfondimento, perché non si può saltare subito alle conclusioni, però i racconti di chi ha assistito a questa scena sono quelli di un uomo che si prende in braccio una bambina e se ne scappa, viene rincorso dai genitori, recuperano la bambina, lui scappa, viene arrestato ma non può essere fermato. Il ministro della giustizia Orlando, sollecitato da più parti, manda gli ispettori alla procura di Ragusa, ma avete sentito la mamma che dice: sono disgustata, queste sono le leggi italiane. Ma dico io, se non hanno potuto fermare quelli che volevano farsi saltare in aria in Francia, che avevano il braccialetto elettronico al polso perché avevano tentato di andare in Siria a fare la guerra, poi sono stati individuati, presi, si sapeva che avevano per la testa strane intenzioni, se non si è potuto fermare loro, si può mai fermare un indiano che si prende in braccio una bambina per qualche secondo su una spiaggia? Si chiama Stato di diritto, ci sono delle regole, non ci sono indizi a carico, elementi che possano giustificare l'arresto, e quindi queste persone tornano in libertà. Ma dobbiamo cambiarlo questo Stato di diritto? È una domanda, è lecito farsela. Cosa ne pensate? 800 24 00 24. Di fronte alle minacce del terrorismo, ma anche alle difficoltà legate all'integrazione con gli stranieri, inutile negarlo, ma non però, per favore, proibire il burka, che non c'entra nulla con la sicurezza, perché veramente vogliamo fermare i terroristi impedendo alle donne di mettersi il burka? Non c'entra niente, però forse invece sì, e ridurre, aumentare, scusate, i tempi di fermo nella polizia, controlli più stretti nei luoghi pubblici, anche nel web per quanto riguarda le comunicazioni tra terroristi. Insomma, è un momento nel quale si discute di questo, delle regole dello Stato di diritto, se dobbiamo rimanere fermi lì come siamo stati fino ad oggi, oppure se bisogna cambiare qualcosa. 800 24 00 24. I pareri, per certi aspetti sorprendenti, delle donne al meeting di CL sul burka. Mi crea più disagio una donna in topless, tutto sommato, che non una donna coperta con appunto un abito che la sua tradizione richiede, purché, ripeto, sia una donna riconoscibile per sicurezza. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. The sky over Kabul is also very blue. Buonasera, Riccardo Decorato, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Lombardia. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Queste sono tre ragazze di Kabul che anni fa hanno inciso una canzone che parla di questo, del burka. E ironicamente, naturalmente, loro dicono: mia nonna indossava il burka, mia mamma indossava il burka, io stessa devo indossare il burka. Io l'ho detto nell'introduzione, non c'entra nulla con la sicurezza proibire il burka. Lei ha fatto una proposta in consiglio regionale della Lombardia su questo. Qual è il motivo per cui lei fa questa proposta? Allora, premesso che lo Stato di diritto c'è in Italia, ma non nei paesi musulmani. Lei mi cita uno Stato di diritto in Egitto, abbiamo visto le geni che questo fine ha fatto. Abbiamo visto in Iraq, in Iran, cioè lo Stato di diritto a cui lei si richiama c'è in Italia, sì. Bene. Ma non nei loro stati, dove la famiglia musulmana ha tutto un altro tipo di riferimento. Sì. No, ma io, guardi, io ho detto, scusi, decorato, io ho detto, si chiama Stato di diritto per dire che è questa la spiegazione, il motivo per cui capito, noi spesso abbiamo le mani legate. Stato di diritto. Sì, però, non c'è lo Stato. Però diciamo, intanto diciamo, non sceglie. No, scusi, decorato, intanto diciamo una cosa, vediamo se siamo d'accordo su questo. Lo Stato di diritto è una conquista per noi ed è proprio quello che ci differenzia dai paesi dove questo non c'è. Esatto, però questi arrivano da paesi dove non c'è lo Stato di diritto e dove la donna è addirittura in una famiglia che non è una famiglia monogama, ma è una famiglia che ha addirittura non bigama, ma che può avere la possibilità di avere un uomo con tante mogli. Siamo in altri paesi, quindi non si può dire lo Stato di diritto. In Italia certo, e noi difendiamo, ma loro arrivano da paesi in cui la donna è molto diversa la posizione rispetto a quella che c'è in Italia, in Germania, in Inghilterra. Cioè non si può fare un paragone, questo deve essere chiaro. Il burka alle donne, come i burkini o altre cose, sono imposte dall'uomo. Non è una libera scelta della donna. Questo lo credo anch'io. Questo lo credo anch'io. Io non avrei nulla da dire. C'è da dire una cosa. C'è da dire una cosa. Aggiungo solo per per mettere un particolare in più. Spesso il burka viene messo alle ragazze di 8, 9, 10, 11 anni quando sono nell'età dello sviluppo, quindi un'età nella quale la libera scelta non esiste. Per cui io su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Esatto. Però detto questo, non è l'età della ragione. Detto questo, in Italia, in Europa, perché secondo lei, che ha fatto una proposta in consiglio regionale della Lombardia, intanto dove vorrebbe con questa mozione proibire il burka? Intanto la mozione fa una considerazione sul fatto che la donna nei paesi musulmani e nella famiglia musulmana è sottomessa, non ha libertà di scelta. Ma io ho presentato questa mozione perché c'è un problema igienico-sanitario. Cioè, quando una persona col burka, una donna col burka, mangia o beve, ci sono problemi anche igienico-sanitario evidente. Quindi quando si tratta di somministrare a queste donne un piatto di spaghetti piuttosto che un piatto, che so io, di altro tipo, c'è un problema che i paramenti che ci sono davanti alla sua faccia creano grossi problemi. Io li ho visti a Milano nei bar, nei ristoranti, creare dei problemi anche sulla tavola, perché devono alzare questo velo per introdurre gli alimenti e introdurre in bocca gli alimenti. Quindi c'è un problema igienico-sanitario, per cui quando mangiano, poi però, almeno quando mangiano, si tolgano il velo davanti. Però il problema igienico-sanitario, per esempio, lei lo vuol proibire anche nelle piscine, io ho letto, e questo può essere un fatto che riguarda anche io che vado in piscina e mi trovo a fianco una col burkini, potrei dire: beh, ma io non so esattamente cosa ci può essere là sotto, e il problema igienico può riguardare anche me. Però nel caso del ristorante il problema igienico riguarda solo la ragazza che sta mangiando, si rientra nella sfera delle sue libertà, saranno fatti suoi, no? Riguarda anche chi sta intorno, riguarda anche un modo di vivere. Ci sono persone che sono nel tavolino accanto, che sono magari molte volte si è abbracci abbracci, cioè si è in un tavolo. Come abbracci abbracci? Scusi, decorato, lei in che ristoranti va? Io nei ristoranti dove vado, ognuno c'ha il suo tavolo. Diciamo i bracci, sì. Non gli abbracci, i bracci, non gli abbracci, per carità. Cioè a distanza di braccio. Lei dice siamo a distanza di braccio. Esatto, esatto, a distanza di qualche braccio, di un braccio, due. Quindi c'è un problema anche di, diciamo, igienico-sanitario. Basta alzare, non dico di togliere il burka, ma basta togliere il velo. Mm. Cioè, però faccio un po' fatica a seguirla da questo punto di vista, perché capisco, lei ha fatto un ragionamento sullo stato di diritto che, ripeto, non esiste. Io però ho fatto una domanda, io ho detto che esiste lo stato di diritto, che è una nostra conquista, e che adesso io lo domando agli ascoltatori, lo domando a lei, ma me lo domando anch'io, se oggi deve essere cambiato lo stato di diritto, ci sono degli ambiti nei quali le nostre libertà possono possono essere ristrette per avere in cambio che cosa? Più sicurezza fondamentalmente. Il ritorno al caso dei terroristi francesi che avevano il braccialetto al braccio, erano conosciuti dall'autorità francese, ma la Francia non può incarcerare nessuno in quelle condizioni, perché lo Stato di diritto glielo nega, glielo proibisce. Però se vogliamo prevenire gli attentati, allora forse qualche domanda su questo dobbiamo farcela. Questa è una domanda che io faccio, quindi non è che lo Stato di diritto vale come una pietra tombale su questa discussione. Però, mi faccia finire. Io seguo il premier francese Valls che dice noi siamo contro il burkini perché è contrario alla nostra ideologia, è contrario al modello di vita francese. Non seguo lei che dice che lo vuol proibire nei bar per questioni di genere. Allora diciamo facciamo direttamente il discorso che fa Valls, forse. Anche no? Un problema di genere. Anche. Io ho aggiunto questo problema. C'è un problema che è quello che ha detto Valls, che ha detto anche la Merkel su burka. Quindi non persone che lo Stato di diritto penso che lo conoscano, sia Valls che la Merkel. E io aggiungo, oltre ai problemi che ci sono, che riguardano la questione del volto velato che non si vede, di tutto quello che sono le considerazioni che ha fatto Valls e che ha ripreso poi la Merkel, c'è un problema, a mio avviso, anche quindi insomma, lei condivide quella parte e aggiunge più, anche una questione di igiene. Esatto, in più aggiungo, anche perché la regione non ha competenze nel vietare queste sono divieti che spettano molte volte allo Stato. Noi possiamo chiedere, come chiediamo al presidente della regione Lombardia, di far sentire la sua voce, ma queste sono competenze che non sono regionali. Invece le competenze sono regionali in materia sanitaria, igienico-sanitario. Ed ecco perché lei ha trovato questo, che possiamo dire è una sorta di escamotaggio. Per trovare un aggancio anche con le competenze regionali, visto che i sindaci, che sono anche loro competenti, perché anche i sindaci, hanno, essendo ufficiali di governo, hanno competenza sulla sanità. Senta, però il ministro dell'Interno Alfano ha escluso che in Italia possa esserci un'azione di questo tipo, perché ha detto non dobbiamo esercitare delle pressioni che possano suscitare delle reazioni, magari anche violente. Non è un rischio che c'è proibire il burka, che di fatto ci possono essere questioni igieniche in alcune situazioni, ma di fatto è un problema di libertà personale e che torna alla scelta della singola persona, che però potrebbe suscitare delle reazioni violente nelle comunità. Non è un rischio, secondo lei? Alfano fa delle considerazioni che evidentemente non sono state recepite, non sono state minimamente tenute in debito conto dal primo ministro francese, che è un socialista, al contrario di Alfano, che si dichiara uno, non so, di dov'è, di destra, più o meno di centro, o dove sta collocata, come anche la Merkel. Io non penso che questi siano impazziti, che siano delle schegge impazzite, la Merkel e Valls. Sono i massimi esponenti dello Stato francese e dello Stato tedesco. Forse perché la Francia si trova già immersa in una sorta di guerra, possiamo dirlo, perché è stata presa di mira tante volte dagli attentati, e quindi siamo in una sorta di azione-reazione. Ma la Francia è stata presa di mira non perché ha tolto il burka. La Francia è stata presa in mira 3 anni fa già per tutt'altri motivi. Il burka è falso, si è espresso solo 2 settimane fa, 3 settimane fa sul burkini, o sul burka. non si era mai espressa. La Francia è stata attaccata pesantemente a Charlie Hebdo, è stata attaccata a Bataclan, è stata attaccata con il povero prete di Rouen che è stato ammazzato, quindi non c'entra proprio niente. È una considerazione che Balta ha voluto fare, che è un socialista. Ricordo a lei e a tutti i radioascoltatori che Balta è un socialista, la Merkel è della CDU, non è né della Lega né di Fratelli d'Italia, né l'uno e nell'altro. Comunque lei mi conferma che questa iniziativa sul burka fa parte di una, come vogliamo chiamarla, una battaglia di civiltà, una battaglia ideologica, non ha reali ricadute per esempio sul tema della sicurezza, perché in passato la Lega in Lombardia ha proibito il burka negli ospedali anche per questioni di sicurezza. Ma negli ospedali è diverso, negli ospedali c'è un problema anche di sicurezza, perché una persona che non si vede, ma quando uno deve andare in un ristorante, anche se non si vede, non succede nulla. Succede che sporca parecchio. E questo quello. Poi c'è un problema, ripeto, a monte c'è un problema di competenze. Io sono contrario al burka in linea di principio. In particolare le competenze regionali attengono al tema sanità e c'è un problema sanitario. Un burkini, una ragazza che si fa un bagno in burkini e sta lì per qualche ora col burkini, io ritengo che non sia igienicamente corretto che questa persona sia a contatto di altri dopo aversi fatto un bagno vestita. C'è una questione anche di pratica. Questo è possibile, pulizia. Questo è possibile. Va bene, grazie, staremo a vedere, decorato, staremo a vedere, questa è una mozione. Per ora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, voi che cosa ne pensate? Io personalmente non metterei il burka, non lo farei mettere a nessuno, però penso che sia una libera scelta, non una libera scelta, perché molto spesso non è una libera scelta, ma è una scelta da parte delle comunità in cui stanno le donne. È un discorso complicato, però ha a che fare con la libertà di autodeterminazione delle persone. Se uno vuole andare in spiaggia col burka, ci vada, è un problema suo. Se questo non toglie nulla a me, alla mia libertà e alla mia sicurezza, allora vada pure. Questa è la mia posizione. Però con decorato abbiamo chiarito che in Regione Lombardia si discute su una possibilità di una nuova mozione che vieti il burka nelle piscine, nei luoghi pubblici, anche nei ristoranti e nei bar. 800 24 00 24, vi ha convinto? Borsa, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buonasera a tutti, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24. A settembre in Consiglio regionale Lombardia potrebbe arrivare la proposta di vieto di burkini nelle piscine, ma anche di burka nei bar e nei ristoranti. L'ha appena presentata questa proposta il consigliere regionale decorato. Vi ha convinto? Vi aspettiamo. Così come ha detto, chiamateci per i vostri racconti dai luoghi di vacanza. Storie, per esempio, come questa. Dalla provincia di Udine, a Stregna e a Prepotto, c'è in questi giorni un raduno di hippie e di nudisti nelle valli del Natisone, che però stanno suscitando qualche reazione, perché si sono viste gruppi di persone circolare completamente nudi. E per qualcuno si tratta di una cosa oscena. E allora, se siete passati da quelle parti, avete sbirciato, visto qualche cosa, chiamateci all'800 24 00 24. Francesco da Treviso, buonasera. Buonasera Alessio, buonasera. No, giusto un brevissimo aneddoto. Io ho subito qualche anno fa, da mia figlia piccola, che allora aveva quasi 3 anni, un tentativo di rapimento da parte, credo, di gente di etnia rom, che però aveva adescato la piccola attraverso un minore che la stava conducendo via a mano verso la mamma. Sono riuscito a interrompere la cosa, non mi sono rivolto all'autorità, perché appunto ho un parente che opera come legale penalista, perché appunto sapevo già che non sarebbe successo, non sarebbe servito a nulla. E ho dovuto anche fronteggiare poi le minacce di questa gente che mi ha intimato appunto di non rivolgermi alle autorità. Ora, va bene lo stato di diritto, va bene tutto, massima solidarietà ai genitori, io credo a loro. Non so come la vede lei, ma io credo a loro. Perché questa gente è una vicenda preoccupante, così. È una vicenda preoccupante. Darsi che questa persona fosse azzardo, una spiegazione, semplicemente certo. Un po' disturbata, abbia preso in braccio la bambina e magari non volesse rapirla. Però se, come dicono alcuni testimoni, si è allontanato di alcuni metri con la bambina in braccio e hanno dovuto rincorrerlo, io immagino lo spavento allucinante dei genitori. Ed è una cosa grave, sicuramente molto grave, perché questa persona magari potrebbe rifarlo, non so per quale motivo. E quindi forse una certa leggerezza da parte dei giudici c'è stata, secondo me. Certo, no, guardi, io non ho visto mia figlia in braccio ad un adulto, l'ho vista per mano con una bambina che la stava conducendo presso un adulto in uno dei rarissimi momenti in cui mi sono distratto e ho perso 10 anni di vita, hai capito? Cioè mi è scattata una molla che non so neanche descriverle, per cui non credo che un genitore possa non avvertire certi comportamenti. Ecco, questo. Da parte mia, massima solidarietà, volevo solamente raccontare questo aneddoto e purtroppo confermare il fatto che se non ci si allontana o non c'è un grave pericolo accertato, rivolgersi all'autorità è inutile. Purtroppo, perché questo non mi fa piacere, mio parere personale. Che non se ne voglia il magistrato sulla revisione. Sì. Vabbè, no, ma Francesco, il suo racconto, tra l'altro, mi sembra anche un racconto sensato di una persona che è equilibrata, che dice: mi è successo, ho avuto paura, ho perso 10 anni di vita. Adesso, ha detto lui, sfido chiunque a non perdere 10 anni di vita di fronte a una situazione del genere. Franco d'Arezzo, buonasera. Franco, buonasera. Sì, ringrazio, scusatemi, fermo, sono in macchina. Dunque, sì, piano, tranquillo, non facciamo incidenti, non creiamo. Semplicemente dire questo, sì. Intanto non vorrei sgombrare il campo dall'approccio ideologico, no? Che comunque è legittimo, però non mi piace. E mi pare che si debba discutere esclusivamente intanto di questioni tecniche, cioè il nostro Stato di diritto si basa su delle leggi, delle regole formali. La prima regola formale che c'è in Italia, per esempio, mi pare che dati dal 74, è che non ci si può coprire il volto, sì, perché sì. La persona va identificata, punto e basta. Allora, niente, come si fa a vietare un vestito? Io non posso vietare un vestito, perché uno si può vestire come vuole. L'unico limite, credo che sia, non sono sicuro se c'è ancora, ma credo che sia, mi tempi c'era perché io sono abbastanza vecchio, il comune senso del pudore. Vediamo poi, se sono abbastanza vecchio anch'io per essere in sintonia con te, Franco. Il comune senso del pudore, perché sì, questa è una vecchia cosa che entrava in molte leggi. Però tu dici la legge c'è, la legge, tu citi anche l'anno, il 74, la legge antiterrorismo, basterebbe applicare quella lì. Appunto, non basterebbe applicare. Se una legge c'è, sì. La legge non è che si debba applicare. Ma l'Italia è il paese nel quale le leggi si interpretano. Perché c'è sempre stata, è sempre stata considerata dalla magistratura, dall'autorità di pubblica sicurezza, l'eccezione proprio il fatto del culto, no? Religioso, come fa parte del culto e delle tradizioni di quelle persone, veniva considerata un'eccezione ammissibile il volto coperto solo in quel caso, per le suore o anche nel caso del velo o addirittura del burka. Forse oggi però, mi sembra il tuo ragionamento, è il caso di dire basta, applichiamola, punto e basta. Se si applica il principio nell'ambito dello Stato di diritto cosiddetto che la legge può essere o un po' non essere applicata, beh, allora altro è Stato di diritto, quello è lo Stato di... Sì, vabbè, si sa benissimo che per la legge per gli amici si interpreta e per i nemici si applica. Il problema fondamentale è questo: questa è una legge, su questo bisogna andare. Quindi io vieterei non la burca, è femminile, ha detto il mio amico che è l'imam di Firenze, però vieterei di coprirsi l'identità, e questo è uno. Non sono d'accordo con quel signore che diceva che è un problema, per esempio, di mi ritorna un problema, diciamo così, igienico. Beh, sì. È un problema igienico, io non ce lo vedo. Al ristorante non ce lo vedo nemmeno io, in piscina forse no. Sì. Ma in piscina, se io per esempio vado in piscina con il costume, sì. Guardi, sto per andare in piscina con il costume. Se io per esempio ho gli indumenti intimi sporchi, sì. e non mi attardo su questa immagine, no, non ecco, io ho l'indumento intimo sporco, l'altro c'ha il burkini pulito, non ce lo vedo questo, è un buon senso insomma. Va bene, Franco, grazie, buona serata, grazie. Sandro da Genova. Sandro? Dunque, mi ha fatto un po' ridere quella proposta del politico di prima. Cioè, mi sente? Sì, sì, la sentiamo, Sandro. No, non credo che sarà presa in considerazione da qualcuno, perché veramente di tutte le cose che si potevano dire ha trovato proprio l'elemento più... Sì, ma l'ha detto banale. Lui stesso, Sandro, Decorato ha detto, siccome non è competenza della regione questo genere di questioni, ma la sanità sì, allora io mi appello a un fatto di igiene, perché comunque voglio andare contro il burka. Questo ha detto Decorato, di fatto. Certo, certo. No, c'è il fatto che però noi quando andiamo nei loro paesi non ci possiamo permettere certo la libertà che abbiamo qua, no? Questo però che vuol dire? Che dovremmo anche noi qua non concedere libertà? No, ma io vorrei che si pigliasse in considerazione non fa la reciprocità. E quindi cosa perché, invece? Perché questo non si fa? Non ho capito. Cioè, se qualcuno viene perseguito in Italia e scappa... E torna al loro paese, non si può chiedere l'espulsione. Qui si servono della democrazia, che ritengono l'espressione più evidente della nostra corruzione morale, la utilizzano per siano soddisfatti i loro bisogni, però hanno un... Sentiamo male, Sandro, sentiamo male, quindi io la devo salutare, grazie, buona serata. Giuseppe dalla provincia di Campobasso. Buonasera. Buonasera, Giuseppe. L'inizio della trasmissione diceva di intervenire e riportare un'esperienza in merito, diciamo, al rientro dalle vacanze e quant'altro. Volevo segnalare un intervento della polizia stradale del distaccamento di Ascoli Piceno, sì, che è intervenuta sulla A14 perché era stato segnalato evidentemente la presenza di un cucciolo abbandonato sull'autostrada, sì, e con molta professionalità. Cucciolo di cosa? Un cucciolo di cane? Un cane, sì. E quindi chiaramente pericolo per chi transitava sull'autostrada, perché c'era un traffico intensissimo. Cioè c'era un cagnolino fermo in mezzo all'autostrada? Abbandonato. Quindi abbandonato. Anche a rischio che qualcuno per evitarlo, esatto, facesse le per manovre? Per evitarlo facesse... C'è stato l'intervento molto professionale da parte di una pattuglia della stradale di Ascoli, sì, di Geno, che ha bloccato il traffico, ha tratto in salvo il cagnolino e si è presa gli applausi tutti quanti. Lei era in coda, quindi? Ero in coda. Sì, cioè, sì, inizialmente sarà partita la solita... La solita lamentela, traffico, chissà perché, per quale motivo. Poi magari avete capito dopo qual era il motivo, o l'avete capito subito? È stato un attimo, perché chiaramente si passava, no? Anche se al vento si passava. Poi è arrivata questa volante che a un certo punto ci ha bloccati all'interno di un... Io ero appena entrato all'interno di una galleria, praticamente. Hanno bloccato il traffico, sono scesi con... c'era un ragazzo molto giovane, veramente, è andato con... Impavidi, sono andati a salvare il cane. Beh, cioè... Impavidi, però ci hanno evitato anche dei pericoli. Sì. Beh, di fronte a tutti i rischi che ci possono essere, agli interventi difficili che può fare la polizia, questo sicuramente non era uno dei più difficili. Però, insomma, è un bel gesto e lei l'ha voluto sottolineare. Grazie, Giuseppe, buona serata. 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri racconti dalle vacanze, state andando e state tornando, o se ci siete ancora immersi. David Bowie c'è anche lui tra i candidati a diventare statua in un parco particolare, il parco dell'onore e del disonore, che il sindaco di Vagli di Sotto, in Garfagnana, provincia di Lucca, vuol creare. È con noi Mario Puglia, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Sindaco al terzo mandato, dico bene? Terzo mandato. Un sindaco di Forza Italia? No, centrodestra. Di centrodestra? Di centrodestra, basta dire così, però non ho un'identificazione partitica. Vabbè, di centrodestra in una regione, in una zona solitamente appannaggio insomma del Partito Democratico di sinistra. Qualcuno scrive nella rossa garfagnana il sindaco Mario Puglia e le sue battaglie, le sue crociate, perché questa del parco adesso ce la racconterà, è una sua l'ultima iniziativa, però intanto nel suo comune c'è stato un boom di visitatori che sono venuti a vedere una passerella particolare che lei ha intitolato, ce lo dica lei. Allora, il parco intanto è una cosa fatta, dove nel parco ci sono delle statue marmoree, che noi siamo un territorio, siamo un comune che vive sulla economia e abbiamo delle cave di marmo, tra cui c'è il marmo più famoso direi al mondo, è Calacatta, quello che è nella Sala Nervio nel Palazzo dell'ONU. Allora abbiamo ce l'ha anche lei nel suo ufficio, ho capito male? Ce l'ho anch'io nel mio ufficio, cioè la sala del Consiglio Comunale, un comune che l'abbiamo fatto noi, questa amministrazione nel 2013, veramente è un capolavoro, perché noi facciamo per fare la valorizzazione dei prodotti che abbiamo in zona. Sì, anche perché lei queste spese può farle, perché incassa gli oneri proprio delle cave di marmo, no? Io incasso gli oneri, ma non è un atto dovuto, ho dovuto fare 53 processi gravissimi penali, mi hanno assolto sempre perché tutti gli imprenditori del marmo rubavano da tutte le parti e mi è stato riconosciuto dopo 53 cause e il comune non percepiva un soldo fino a 2 anni fa. Allora fermiamoci un attimo, Puglia, perché lei mi dice io sono vulcanico, però io devo fare le informazioni sul traffico, poi torniamo a spiegare perché il boom di turisti a Valli di Sotto, la passerella intitolata alla torre a Girone, lei che è un sindaco che ha fatto 53 cause, ha fatto parte anche di Gladio e adesso vuole fare un parco, l'ha fatto, un parco dell'onore e del disonore con le statue, tra l'altro David Bowie, ma anche Schettino con le corna, con le orecchie come un asino. Torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con il sindaco di Valli di Sotto, Mario Puglia. È vero, lei sindaco di centrodestra nella rossa toscana, che il presidente Ernesto Rossi, Rossi della Toscana, le ha riconosciuto di aver fatto delle cose positive nel suo territorio, è vero? Io direi di sì. Noi abbiamo il lago, il bacino artificiale più grande del centro Italia, che è il lago di Valli. L'abbiamo reso un parco, un bioparco. Nel bioparco ci abbiamo fatto il parco dell'onore e del disonore, dove secondo il nostro libero arbitrio abbiamo posizionato delle statue marmoree del valore penale di 50-100 mila euro l'una, che possono rappresentare o raffigurare determinati personaggi che hanno avuto a che fare o con l'onore o col disonore. Mai ho detto che è Schettino, però c'è un capitano che fugge con un salvacente tutto in marmo, con le orecchie d'asino. C'è un altro capitano che gli dice, con le orecchie da coniglio, c'è un altro capitano che gli dice torna a bordo. Invece le posso fare il nome di Fabrizio Quattrocchi, dove c'è il suo nome, è la guardia giurata che, nonostante che la Costituzione italiana ci riconosca il lavoro, lui il lavoro se lo dovette andare a trovare in Iraq e anche nell'ultimo momento non rinnegò quello che è la, diciamo, l'Italia, ma nell'ultimo momento disse vi faccio vedere come muore l'italiano. Secondo noi era una figura che in quel momento ha dato all'Italia una parola, un valore che purtroppo noi politici e tante altre persone ci siamo scordati, allora noi non lo vogliamo Ci si mette anche lei, ma quando lei dice noi... No, io mi ci metto sempre perché le mie colpe ce l'ho anch'io. Ma quando dice noi, chi è che ha deciso che ci fosse la statua di Quattrocchi o di Schettino nel parco? L'abbiamo il Consiglio deciso, Comunale? Dico, noi l'abbiamo deciso, io come sindaco e la mia amministrazione, che è un'amministrazione di centrodestra, col voto contrario naturalmente del centrosinistra, perché noi... siamo maggioranza con una opposizione. Però lei ci vuol mettere anche David Bowie, ma con una motivazione un po' particolare. Allora, David Bowie, noi intanto ci abbiamo messo il cane diesel. E noi, il cane diesel è quel cane che si è sacrificato della polizia francese in quel blitz che è stato fatto vicino a Parigi. Era un animale che serve l'uomo, difende l'uomo e si è sacrificato per l'uomo. Per noi gli abbiamo dato un grande valore, l'abbiamo messo nel parco dell'onore. David Bowie ha girato nel nostro territorio, in una zona magnifica che è Campo Catino, sì. Ci ha girato con Pieraccioni il mio West. È stato ospite del nostro territorio per tanto tempo. Tra l'altro lui era videomusica al Ciocco e era anche a girare il film a Vagli. E ci siamo, allora noi nel 1998 lui ha abitato in questa zona, è sempre stato vicino a questa zona e lo vogliamo ricordare vestito da cowboy nella figura di come quanto ha girato il film. Ecco perché David Bowie, abbiamo questo, cioè, mettiamo una statua e la mettiamo non nel parco dell'onore o del disonore, ma la mettiamo dove ha girato il film, in una delle zone più belle, in un altro posto ancora. Però è vero, però io non so se i turisti stanno venendo, perché quella è una zona che si viene a vedere lo stesso, perché c'è questo invaso artificiale che ricopre quasi integralmente un paese antico, un paese che c'era lì nel mezzo. Quindi so se avete presente, lo dico agli ascoltatori, le immagini di Vagli di Sotto sono quelle fotografie nelle quali si vede questo laghetto artificiale nel quale c'è immerso una specie di paese che adesso è un paese fermo lì, insomma addormentato e in mezzo all'acqua. Non so se vengono tanto per quello quanto per il parco, oppure all'inaugurazione della passerella che lei ha voluto intitolare anche. Ma questa lei una la scelta... chiama passerella, sì, io la chiamo un ponte maestoso di oltre 140 metri e dalla strada la passerella è per conto proprio agganciata al ponte è 60 metri, cioè è un'infrastruttura enorme di 200 metri alta 100. Cioè, questo è un'opera imponente, cioè, e ha collegato le due sponde del lago e ha collegato il parco, il bioparco, perché in questo bioparco noi diamo ricovero anche a tutti quegli animali che vengono soccorsi, sì, e che vengono trovati abbandonati, o tipo a Pisa, dopo che hanno corso si sono infortunati e passerebbero al macello, noi li curiamo e li teniamo noi dentro questo bioparco. Questo... ecco, non è una passerella, ma è un'opera importantissima. Però ha la particolarità, sindaco, di essere illuminata da LED tricolori, se ho capito bene. Senta, io lei ha detto prima, sì, la mia cultura e la mia ideologia viene nel rispetto della Costituzione, ma della bandiera italiana e della nazione italiana. Forse più della bandiera italiana che della Costituzione, perché lei ha fatto parte anche di Gladio. Possiamo dire questo? Lasciamo perdere, sono periodi che a me mi hanno forgiato e mi hanno insegnato a vivere, perché era un'organizzazione importante. Era un momento storico, era un momento sì, che ricordiamo che serviva. Cos'era Gladio? Gladio era quell'organizzazione paramilitare clandestina promossa dalla NATO per fermare l'invasione, sostanzialmente la possibile invasione dell'Unione Sovietica e degli alleati in Europa occidentale. Ma questa è una cosa 1200, io sì. Clandestina, ce n'era 1200 e diciamo 800 hanno avuto anche dei processi, è stata riconosciuta la clandestina finché non è stato tolto il segreto di Stato nel 1900, non mi ricordo che anno fosse. Sì. Ma questa è una cosa deve dire ora. Sì. Scusi, lei mi ha domandato una domanda. Io le posso dire che dal 19 di giugno che abbiamo aperto questa opera maestosa, sì, abbiamo fatto, non è più un evento, ma abbiamo portato oltre 90.000 persone nel nostro territorio, è diventato un fenomeno turistico di livello nazionale e vengono da tutte le parti. Vuol dire che abbiamo creato nel nostro territorio, a prezzi zero, parcheggi, piscina gratis, parco gratis, passerelle, cioè canove, sì, coi soldi, diciamolo però, lo ricordiamo, gli oneri delle cave di marmo, perché non è che lei i soldi li stampa. Ma le cave di marmo hanno cominciato a pagare nel 2014 e poi non sono 2 milioni, ma è 1 milione solo. Beh, però per un paese piccolo come il suo, 1 milione. Ma io ho levato anche tutte le tasse. Qui non pagano le scuole, qui sì, non pagano i pulmini, qui non si paga la mensa, qui ho levato la tasi. Cioè, Vagli, diciamo, è diventato emblematico proprio perché c'è. Però scusi, sindaco, la questione, dell'intitolazione di questo, che alcuni hanno scritto passerella ponte di 140 metri, alla torre a girone, i due Marò. che adesso sono tutte e due in Italia, c'è stata un po' di discussione, perché lei a un certo punto ha detto prima che ci sia la decisione finale non è chiaro se possiamo, come dire, arruolarli anche loro nel tema dell'onore oppure no. Allora, io sono convinto che questi militari sono dalla parte giusta, e come io conosco gli ambienti militari italiani, credo che non abbiano fatto alcuna infrazione. Però sono un garantista e vorrei, e abbiamo fatto questo, perché fosse la nazione italiana a dovere, con la sua magistratura e con i suoi organi competenti, giudicare come fanno tutte le nazioni del mondo i propri militari. Ecco, ma quindi è intitolato o no alla Torre Girone il ponte? Allora, deve sapere che noi, proprio per questo, così glielo dico in diretta, sì, c'è un'inchiesta anche di polizia giudiziaria, perché sono persone vive e in Italia, finché non ci sono vari consensi, non si può intitolare niente. Noi abbiamo intitolato alla Brigata San Marco e sotto Girone la Torre, e chiediamo, cioè, alla come sottotitolo, come sottotitolo, diciamo, l'ha usato un po' come scamotage. Noi ora chiederemo alla prefettura di Lucca tutte le autorizzazioni, perché quello che si è prefisso l'amministrazione, al momento che sarà, come noi pensiamo, il processo darà i risultati che noi auspichiamo e siamo quasi certi. Allora lì rigirerà l'intitolazione alla Torre a Girone in primo senz'altro, perché questi sono due soldati comandati. Vabbè. E non si doveva perdere, secondo noi, l'attenzione. Noi abbiamo fatto anche per riportare l'attenzione su questi due che soldati, però adesso italiani. Insomma, la strada si è aperta, perché sono rientrati tutti e due in Italia. C'è l'arbitrato internazionale, il tribunale di Amburgo. Grazie Puglia, grazie, buona serata al sindaco di Vagli. 800 24 00 24. Carla dalla provincia di Bologna per chiudere. Pronto? Carla, prego, tocca a lei. Ah, niente, io volevo intervenire rispetto alla questione del burkini al mare, in piscina, eccetera. Sì? Dunque, io sono italianissima, sta Bologna, cristiana cattolica, eccetera. Ma ho un problema col sole. Io mi sono studiata parecchie volte la schiena, i polpacci, a fare snorkeling. Io da qualche anno a questa parte entro in acqua con i pantaloni. Però Carla, fare snorkeling capisco, perché uno sta magari anche un'ora in mare, a parte che piglia freddo più che caldo, più che il sole forse. Però no, il sole in acqua, sì, mi ustiono, nonostante la 50, io mi ustiono i polpacci. Però non quindi ho capito, la conclusione di questo ragionamento, lei usa la muta, ma uso dei pantaloni di licra, perché la mucca è troppo grossa, dei pantaloni di licra e una maglietta a maniche lunghe. Io, secondo me, il viso libero, ok, deve essere per forza scoperto il viso, ma se uno vuol tenere ognuno dei fa quello lunghi che gli pare. Io sono di questa filosofia, se non va contro la libertà di qualcuno o la sicurezza di tutti. Però non capisco il collegamento tra lei che fa snorkeling e le ragazze che stanno sulla spiaggia sedute col burka. Esistono, lei lo sa che esistono gli abiti da bagno? Li vendono anche in Italia, servono per le persone più cicciottelle, arrivano più o meno al ginocchio. Sì. Si chiamano abiti da bagno e si vendono in Italia. Però anche lì c'è quella motivazione lì. Io magari non mi metto il costume intero, oppure addirittura mi metto un pareo e non mi scopro. E lei dice che questo è paragonabile al burkini, per lei è quasi la stessa cosa. Nel senso che deve essere libera, cioè il viso deve essere scoperto per la sicurezza nostra e di tutti, e deve essere riconoscibile una persona. Però se io voglio fare il bagno con i pantaloni lunghi, io mi ricordo quando ero piccola, una suora della colonia, entrava in acqua con l'abito. Sì, sì. No, questo paragone è stato fatto. Insomma, se una c'ha il burkini può mettersi a fare snorkeling senza doversi cambiare. Grazie Carla, buona serata. 800 24 0024, GR, torniamo tra un attimo. Pronto? Ah Filippo, ma dove sei? Ma come dove sto? Con sto caldo sto al mare, oh! Ma quale mare, Fili? Torna subito! Per miracolo quelli di Radio 24 ci hanno ingaggiato! Sono riuscito a vendervi un programma, si chiama I Fuori Posto! Ma ci pagano? Ma sì che ci pagano! Ma di che parla sto programma? Che ti devo dire? Parleremo di tutti quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro, nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e mo non ce l'hanno più, eppure di tutti quelli che hanno scelto invece di stare nel posto sbagliato. Dai, muoviti, Fili! Ok, mi hai convinto, vengo! I Fuori Posto, con Umberto Alezio e Filippo Roma, da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. si può fare. Cronache da un paese migliore. Perché la festa dell'unità si chiama l'Italia che dice sì. Ma hanno fatto la polemica. C'è chi dice boh, c'è chi dice forse, c'è chi dice bah, c'è chi dice un non so. Cioè che cos'è? Un partito deve dire qual è la sua posizione. Ci sarà un sacco di gente che vota Grillo, che vota Lega, che vota Forza Italia, non solo quelli del PD, che andranno a votare e diranno: a me Renzi mi sta anche antipatico. Però tra avere un Parlamento con 945 parlamentari super pagati, i più pagati d'Occidente, e ne averne due terzi anziché tutti i 900, io voto per semplificare. Minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 800 24 00 24, vi aspettiamo per intervenire in diretta e anche per farci i vostri racconti, per esempio dai luoghi di vacanze. Io ho fatto un appello, chiamateci se vi siete imbattuti a provincia di Udine, a Stregna e a Prepotto, nel raduno dei 1500 hippie nudisti che stanno facendo discutere un po' la comunità, tutti a sbirciare, a guardare, a dare un'occhiatina, poi allora a scandalizzarsi e a dire: ci sono persone che se ne vanno in giro nude. 800 24 00 24, se siete da quelle parti e avete visto qualcosa, chiamateci e noi siamo qua. Per esempio, c'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666: Slovenia, Croazia hanno fatto fortuna con i campeggi dei nudisti, così come la Corsica e la Francia. Quelli che si oppongono ai raduni nudisti sono baciapile ottusi. Allora, sentiamo il ministro Orlando, il ministro della giustizia, sul caso del probabile, possibile tentato rapimento su una spiaggia di Ragusa ad opera di un indiano 43enne rilasciato dalla magistratura. Io credo che sia interesse di tutti che la ricostruzione dei fatti avvenga tramite le forme previste dalla legge, cioè tramite l'accertamento che il ministero dispone. Questo per due finalità. Da un lato per valutare se c'è stata una correttezza nell'azione della magistratura, ma dall'altro anche per evitare che si celebrino processi paralleli o processi al processo che non sono previsti nel nostro ordinamento. E ora il parere che non ti aspetti, o forse anche sì, da parte delle donne intervistate al meeting di Comunione e Liberazione. Quindi quanto di più si possa immaginare in tema di clericalismo, di cultura cattolica, eccetera, eccetera, sul burka e sul burkini. Gli ascoltatori all'SMS mi invitano a distinguere, ma io non ho fatto confusione tra burka e burkini. Abbiamo parlato di tutte e due. Il burka è il velo integrale che lascia fuori solo gli occhi, il burkini è questo neologismo che indica il costume con il quale si va in spiaggia, le donne completamente coperte mentre i loro mariti stanno tranquillamente a coscette all'aria a fare il bagno. A me il burkini personalmente non disturba, patisco un po' per loro a vederle così coperte in acqua, ma come uno porta una muta, diciamo che fino a qualche anno fa le suore portavano, andavano a fare il bagno vestite, e fino a 100 anni fa forse meno le nostre donne andavano coperte. Potrebbe essere lo stesso un'imposizione costringerle a scoprirsi per fare bagno. I conservanti, amico, fanno male, te bonno manna puro all'ospedale, la gente però è sempre capocciuna e su ste cose proprio non ragiona. Stornelli romani, Ma che non ce lo sai, la roba ghiotta non è quella che trovi già precotta. Il piatto fatto in casa non se batte, de certo è meglio delle scatolette. Meglio perderci più tempo che mangiare le porcherie, e si cucini, poi sta sicuro che non t'avveleni. Al Allora, parliamo di glifosato. Il glifosato è un erbicida. Da oggi, da questi giorni, scattano delle limitazioni all'utilizzo di questo diserbante, che non può essere utilizzato prima del raccolto, e anche però nelle aree urbane, nei parchi, nei giardini frequentati dai bambini, perché non è ancora stato appurato se sia cancerogeno addirittura, o comunque se faccia male. Allora noi facciamo informazione scientifica questa sera, informazione di servizio, ed è con noi Giorgio Calabrese. Buonasera. Buonasera. Medico, nutrizionista, volto televisivo, ma è anche presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Allora, intanto, che cos'è esattamente il glifosato? È un erbicida che venne scoperto negli anni 50 e che poi venne liberalizzato nel 2001 per quanto riguarda la scadenza del brevetto, e da lì in poi la Monsanto ha dovuto dare, come dire, libertà di produzione, e serve perché è un chelante, quindi blocca alcuni micronutrienti dal punto di vista nutritivo delle piante, e dà la possibilità per alcuni cereali di poter essere più produttivi, meno ammalati. Il problema è il ma fa bene. Bravo, bravo. Allora aspetti un attimo, perché qui naturalmente il suo terreno è adesso l'abbiamo chiamata proprio per questo. Voglio solo anticipare quello che è un po' il tema di discussione, perché molte associazioni di coltivatori hanno sollevato su questa questione. Sono favorevoli che l'agricoltura italiana sia un'agricoltura di qualità, pulita, e che ci siano questi divieti, però giustamente sollevano la questione dei prodotti importati, che nei quali nell'etichetta non viene scritto se sono stati trattati col glifosato oppure no. Quindi è la solita questione del imporre dei limiti in casa nostra, ma del lasciare le porte aperte all'importazione. Quindi dal punto di vista dei coltivatori spesso e volentieri è un farsi male da soli, perché questo erbicida è ovviamente stato un alleato degli agricoltori, perché, come spiegava benissimo lei, dottor Calabrese, è proprio, serve per eliminare tutte quelle pianticelle infestanti inutili. Sul fatto se faccia bene o se fa male, prego. Ma veda, io ne parlo da professore universitario, quando insegno ai miei giovani gli spiego che il problema non è soltanto mangiare bene, ma mangiare, come diceva lei, alimenti che abbiano elementi ben noti. Il fatto della etichettatura è un altro elemento aggiuntivo che bisogna sempre di più sottolineare, se noi vogliamo fare una buona politica alimentare, dando la possibilità ai nostri prodotti, soprattutto vegetali, ma non solo, di poter essere codificati sapendo se sono stati trattati in un certo modo come in un altro. La stessa cosa avviene, se lei sa, sui prodotti biologici, al di là del glifosato. Parlo. Cioè, sapere le cose di base, avere le informazioni nell'etichetta dovrebbe essere una cosa trasparente che non... Io sono assolutamente d'accordo, e così deve essere. Noi, lei diceva prima... Io sono presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare, non vado alla soluzione finale perché prima con gli altri 13 scienziati che mi onorano della loro presenza noi dovremmo studiare questa cosa, però bene ha fatto il Ministero della Salute da oggi a creare quello che noi chiamiamo il principio di precauzione. Ecco, perché in effetti c'è un primo parere dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro che ha detto che il glifosato, questo è un parere di circa un anno fa, è probabilmente cancerogeno per l'uomo, probabilmente. Poi mi corregga se sbaglio, c'è stato un altro parere di un'autorità europea che ha ridimensionato questo primo parere? Sì, perché vedi, io sono uno dei padri fondatori dell'EFSA, il primo italiano ad essere, e unico, quando nacque l'EFSA, che prima a Bruxelles poi arrivammo a Parma. E veda, l'EFSA ha questo ruolo di avere dei panel dove ci sono almeno 30 scienziati di tutte le nazioni, non solo europee ma anche mondiali, e va a valutare questo prodotto, i vari prodotti. Questo elemento ha delle zone d'ombra che non per forza significano che devono essere cancerogene, Però ci sono dei dubbi, allora bene fa il nostro Ministero della Salute a fare quel principio di precauzione che era lo stesso che abbiamo fatto con gli OGM, quindi quando ci sono dei coltivatori che, come dicono, aspettate a liberalizzarlo, non lo stanno per forza condannando, però certo, stanno chiedendo chiarezza, e io come clinico, come medico, devo stare dalla loro parte, cioè che è la parte di noi consumatori, però partendo dal concetto che noi scienziati abbiamo l'obbligo, prima morale ma soprattutto scientifico, di dare una chiarezza. In questo caso le devo dire, non c'è nessuno in questo momento che può che garantire, però vale, ma nessuno che può garantire, certo, che non lo sia. Vale quello che diceva lei, cioè il principio di precauzione di fronte a un prodotto che comunque uccide delle erbe, degli elementi naturali, vegetali, con quella capacità, con quella potenza, e di fronte a degli studi che mettono in dubbio il fatto che questa cosa possa trasferirsi agli esseri umani, è bene andarci cauti, e quindi ben vengano questi divieti, no? Mi sembra, lo ha detto anche lei, mi sembra giusto. Che sembra un giochino, perché qualcuno mi ha detto oggi, ma è un giochino, non è un giochino. E di incominciare a dire, non mettiamo il glifosato sui prati belli dove ci sono i bambini che vanno a giocare. Non mettiamo il glifosato in quelle ville bellissime. Nei campi di calcio, per esempio. Un campo verde davanti, che non è la mia questa villa, è di una mia amica, di due miei amici, fantastico, in cui il glifosato non è stato usato, e per cui io posso uscire e posso andare con tranquillità ad essere sicuro che qui non troverò, mentre respiro quest'aria e vedo questo verde meraviglioso, quindi il verde di Asti dove io vivo è un verde che non nasce dal glifosato. Cosa diciamo, ecco, appunto, a questi agricoltori italiani che dicono va bene, benissimo queste limitazioni, però perché queste autorità europee allo stesso tempo non mettono l'obbligo, divieto di importazione di prodotti che vengono dall'estero trattati col glifosato, o almeno che nell'etichetta sia scritto? È un po' quello che succede quando un padre e una madre hanno tre figli, e fino a quando sono giovani la regola è quella del papà e della mamma, poi incominciano a fidanzarsi, poi incominciano a sposarsi ed entrano le altre famiglie, e si ha una frammissione di idee. Io sono un europeista nato, per cui vivo l'Europa, però mettendoci con altri 27 paesi abbiamo fatto, diciamo, un po' di confusione su alcuni argomenti, perché è stato fatto diventare economico ciò che è scientifico, è stato fatto diventare poco scientifico ciò che è salutista. Noi abbiamo l'obbligo di gestire come Ministro della Sanità, da Lorenzin, come governo e come noi che siamo nel Consiglio Superiore della Sicurezza Alimentare, abbiamo l'obbligo di rassicurare il consumatore. E il però consumatore, scusi, allora, c'è il principio di precauzione, parte dal concetto. Prima di prendere il prodotto alimentare c'è un periodo di abbattimento in cui il glifosato non deve essere usato, anche se fosse non cancerogeno. Perché il dubbio, noi dobbiamo fare questo. E io continuo a dire a questi coltivatori, insistete su questo tipo di progetto. Avete visto che il Ministero della Salute ha fatto una cosa che io condivido completamente. Certo, la parola finale la daremo con interviste come sta facendo lei, in modo da poter dare la serenità quando avremo il risultato finale. Però, dice, allora avete dato un giudizio finale, Calabrese, e io dirò, quando lei dirò è cancerogeno e quindi avevamo ragione. Questo vedremo più avanti, però intanto quando lei dice che in Europa si è un po' annacquato, no, le regole da questo punto di vista, e si è fatto diventare economico ciò che è scientifico, cioè sta dicendo che non si possono bloccare queste importazioni perché per l'Europa sarebbe antieconomico creare questa guerra di dazi eccetera eccetera con i paesi dove si produce in quella maniera lì, e quindi questo viene fatto passare come quasi come una verità scientifica. Però guardi, lei sta dicendo una grande verità, posso dirlo, mi punge il cuore, perché sento una stretta quando lei dice questo, ma lei dice una grande verità. Però abbiamo una sicurezza, noi sappiamo difenderci, perché molto spesso il problema è fare dei gol, molto spesso è non prenderli. Noi siamo nella fase in cui stiamo facendo catenaccio per non prendere gol, per non rovinare la nostra salute. Quindi quello che abbiamo fatto in Italia, che è il primo provvedimento in Europa che parte deciso di aspettate un attimo, come dire, non dà un giudizio finale, ma dice comunque ai nostri produttori, entro il 2017 ci sarà poi un nuovo giudizio, non più solo dell'EFSA, ma anche dell'Agenzia Chimica Europea sui rischi della salute, dico, in un anno incominciamo a tirare il freno a mano. E poi visto che lei, dottor Calabrese, visto che lei è stato anche, appunto, come ricordava, membro dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, quali sono i paesi che frenano di più per questo tipo di trasparenza e per questo anche eventuale limitazione, blocco delle importazioni dei prodotti dall'estero che possano essere in qualche modo contaminati? Europa e gli amici inglesi che ora sono in Brexit morale ma non fisica. Quindi da questo punto di vista non ci perderemmo molto lasciando fuori l'Inghilterra. Io rispetto tantissimo l'Inghilterra, non ho pianto però. Non ho pianto. Per cui devo dire che è un popolo di grande civiltà, di grande capacità, di grande potenza, però che al mattino si guarda allo specchio e dice noi siamo bravi. E noi rispondiamo anche noi. Quindi il concetto di fondo è questo, quindi io li rispetto, li amo, ma non li condivido. Per cui quando loro hanno fatto questo tipo di cose noi abbiamo lottato, e anche i popoli dell'Oriente, dell'Est, dell'Europa, siccome sono, come dire, a volte in problemi economici un po' in crisi, hanno delle difficoltà, e allora a volte, come dire, si fanno, potremmo dire incentivare, potremmo dire convincere in buona fede, molto in buona fede, a utilizzare questi meccanismi, questi prodotti. Pensi che la Germania è stato il primo paese a dire fermo, blocchiamo questa cosa, poi dopo alla fine, sai, il concetto economico un po' ti porta così, però anche la Germania aveva dato dei paletti, mentre la Francia e Malta all'inizio hanno detto ma sì, non c'è problema. Va bene, staremo a vedere prima o poi una parola definitiva scientifica su quanto faccia male il glifosato, che insomma che non faccia bene si può dire, però ecco, questo si può già dire, mi sembra. Pronto, professor Calabrese? Sì, io dico sì. Non sappiamo se fa male. Però bene non fa, ecco, se ne potesse fare a meno. Dico che non sappiamo se fa male. Esatto, ed è questo, detto in altri termini. Staremo a vedere quando queste ricerche saranno giunte alla fine. Intanto da oggi sappiamo che ci sono questi nuovi limiti all'utilizzo in Italia del glifosato e lo prendiamo come principio di precauzione con una buona notizia. Con la postilla però che bisogna assolutamente imporre un'etichetta trasparente dai prodotti che vengono da fuori Europa, da fuori Italia, da fuori Europa. E se è il caso proibire anche l'importazione di questi prodotti, altrimenti sembra di giocare con una, come vogliamo chiamare, una foglia di fico, con un velo di un tantino di ipocrisia. 800 24 00 24, siamo qua dopo la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. A Ventotene il vertice per la nuova Europa, summit tra Italia, Francia e Germania, primo confronto del dopo Brexit. Sale a 54 il bilancio delle vittime dell'attentato al matrimonio in Turchia e in Iraq, bloccato un altro bambino kamikaze. Il tentativo di rapimento della bimba a Ragusa, Orlando, manda agli ispettori e dice che bisogna evitare processi paralleli. Le immagini del pestaggio dei quattro minorenni egiziani a Catania, tre aggressori sono stati arrestati, due ancora ricercati. A Palinuro si cerca il corpo del terzo sub morto a 50 metri di profondità, si indaga per accertare le cause della tragedia. Venti a 200 km orari, un tifone si è abbattuto su Tokyo, due i morti, centinaia i voli cancellati. E proprio Tokyo sarà la sede delle prossime Olimpiadi. Nella notte i giochi di Rio si sono conclusi con un tripudio di colori. Milano globalizzata e cinese, il cognome più diffuso in città, cambia anche la composizione sociale, sempre di più i single. Eccoci qua, cari ascoltatori, 19:36 minuti. Questi erano i titoli di Sky TG24. Questa è Si può fare. Questa è la sigla del programma del weekend. Il sabato e la domenica mattina torneremo, punto di domanda, torneremo tutti in autunno, ognuno nelle proprie collocazioni, nel nuovo palinsesto di Radio 24, sicuramente a partire dalla prima settimana di settembre. E allora, prima di andare agli ascoltatori, c'è un SMS che mi ha un po' inquietato, che arriva al 349-238-6666. Onore ai ragazzi che in Sicilia hanno messo in riga tre egiziani che per giorni hanno rotto il cazzo in giro. Io lo leggo com'è. Avanti così, un esempio da seguire. Dice questo ascoltatore e si riferisce al agguato sostanzialmente avvenuto sulla strada di fuori del paese, in provincia di Caltagirone, dove questi tre egiziani sono stati aggrediti da cinque persone, filmati da uno dei tre. Uno di questi tre ragazzi egiziani è in coma all'ospedale a 16 anni e nelle immagini si vedeva che utilizzavano le mazze da baseball. Ora, io non so cosa sia successo, non lo sa forse ancora chiaramente nessuno che abbia scatenato questa rissa, questa rappresaglia, però il signor Moreno, io direi anche il cognome visto che lui si firma, il signor Moreno Giallella, visto che scrive questo SMS, forse lui lo sa che cosa hanno fatto di male questi ragazzi egiziani per meritarsi di essere presi a mazzate da baseball e uno è in fin di vita. Moreno, se mi chiami ti faccio parlare e ci spieghi, visto che tu forse lo sai, che cosa è successo a Caltagirone. Intanto, Mohamed da Milano, buonasera. Buonasera, dottore. Eccoci. Sono Mohamed, originario della Costa d'Avorio. Sì. Allora, purtroppo la batteria è rosso, magari cadrà la linea. Allora, quello che è successo a Ragusa, per me non mettere subito in cattiva luce l'indiano. Perché? Ti spiego perché. A me mi è successo a Baculi con gli amici, eravamo in spiaggia, mia figlia aveva allora 8-9 mesi. A Baculi siamo in Campania, no? Bravo, in Campania, sì. A Baculi. Mentre che eravamo lì tutti tra noi africani e poi italiani da parte, tutti in spiaggia, sì. Mia figlia, allora uno veniva, ah, che bella bambina, che bella bambina. Una signora l'ha presa, sì. Si è allontanata da un minuto dalla nostra postazione. Io e mia moglie eravamo lì a giocare nell'acqua e un altro amico mi dice: Mohamed, ma tua figlia sai dov'è? Ha detto no, ma era qua. E poi, vista che è di colore, cercando l'abbiamo vista in lontananza in braccio alla signora. Io non è che subito ho messo male pensiere, oppure la signora ha cercato di rapire. No! Sono andato lì con calma, tranquillamente, sì. La signora... Però scusa, Mohamed, sì. Cosa stava facendo la signora con col bambino in braccio? Bravo, la signora... Ma io, quello che ho pensato, secondo sì. me, perché capita spesso, quando una bambina magari appena comincia a camminare, oppure all'età di tenero, alcune sì. persone la prende, la coccola, magari uno la prende, gli piace, guarda un po'... No, però scusami, non è normale, Mohamed, mi vuoi dire che è normale che uno prende mia figlia... Viola, che ha 5 anni in braccio, la porta sì. via, è una persona che io non conosco, sì. ed è normale questo? No, per me non è che non è che è normale, però non vorrei che mettiamo l'indiano in cattiva luce, magari... Sì. Però scusami, Mohamed, adesso non mettiamo l'indiano in cattiva luce, questo dici tu, però non metterti neanche tu nella posizione di difendere pregiudizialmente solo perché è straniero come te, perché se stiamo ai racconti... Anzi, se stiamo ai racconti, ai verbali di polizia, questo signore è stato fermato perché è scappato subito dopo, quindi evidentemente o si è impaurito oppure aveva commesso qualcosa di cui, per cui c'era motivo di fuggire. Non è così pacifica, Mohamed. Lo so, ma magari lei ha detto subito il mio pensiero, magari lui si è impaurito e è scappato. Sì, vabbè. Capito? Non la può sapere nessuno questa vicenda, è quasi incommentabile perché bisognerebbe essere stati lì o avere delle testimonianze dirette. Stiamo a quello che scrivono i giornali, stiamo a quello che hanno detto i magistrati, poi quando il ministro non sa cosa fare manda gli ispettori, vedremo probabilmente nulla, perché sarebbe interessante vedere più avanti questi ispettori, se faranno un rapporto, se verrà fuori qualche cosa, ma probabilmente non verrà fuori assolutamente nulla. Lorenzo da Pisa, buonasera. Buonasera. Prego. Sì, no, volevo intervenire relativamente alla questione del glifosato, invece. Sì. Io ho sentito il calabrese parlare. E premesso che non sono assolutamente contrario all'applicazione del principio di precauzione, eccetera, sì. eccetera, eccetera. Però mi chiedo, visto che il professore parlava dell'EFSA e di tutti questi organismi preposti a controllare, come mai a distanza di 50, ormai 60 anni dall'introduzione di questa molecola, ad oggi non sappiamo esattamente, forse, probabilmente, ma però nessuno dice se è pericoloso o meno, anche perché... come dicevano, come giustamente sostengono gli agricoltori, questo meccanismo di introduzione causerà sicuramente un problema per l'agricoltura italiana anche perché Nord Europa ci spaventa fino a un certo punto, ma i cereali, l'utilizzo ampio che è fatto nel campo della coltivazione dei cereali, molti cereali arrivano dal Canada, dagli Stati Uniti, anche dall'Africa. Quindi mi chiedo chi andrà poi a controllare, visto che noi siamo... applicheremo questa cosa, però non sappiamo perché, per come. Poi... Sì, quasi un pacco di pasta, dice la Coldiretti, su 5 in Italia è fatto, pasta italiana, ci riempiamo la bocca col Made in Italy, è fatto con grano importato e trattato con glifosato. Questa è la realtà. Questo è semplicemente quello che volevo dire. Mi chiedo, appunto, questo Calabresi che ci teneva a specificare l'importanza degli importantissimi scienziati, mi chiedo, ma questi organismi quanto sono poi effettivamente... impattanti, quanto sono un po' autoreferenziali, eccetera. Questo è semplicemente perché da tecnico del settore, sì, mi chiedo, sì, poi qual è poi la realtà dei fatti. Premesso che esattamente glifosato, che non è acqua fresca, lo sappiamo tutti. Ecco. Intanto stavo guardando in TV Sky TG24, dal fascione di notizie Sky TG24, vedo una notizia che io mi ero perso in questi giorni, forse perché ero in vacanza, forse è di questi ultimi minuti. A Milano il cognome più diffuso è cinese. Cristian Goldoni fa così perché la sapeva. L'avevi letta? C'era sui giornali di oggi? Sì, io non l'avevo vista perché fino a ieri ero immerso in natazioni, in cose di mare, come sempre, insomma, uno si allontana un po', no? Da tutto. Abbiamo ascoltatori. Marco dalla provincia di Milano. Buonasera. Sì, pronto? Eccolo qua, Marco. Ascolti, io voglio dire una cosa semplice, inutile che qua stiamo a parlare di burkini. L'Europa, sì, è politicamente defunta, è morta. E quei tre impotenti che adesso pensano di discutere del futuro dell'Europa a bordo di una portaerei, non, sì, meritano neanche il gasolio di quella portaerei là. Non si questa, fanno... questa non è male come battuta, però mi chiarisce il collegamento tra la questione del burka, il burkini, e dell'Europa politicamente morta. Sono cazzate, se mi permette. Sì. In quelle zone lì muoiono decine e, sì, decine e decine di bambini tutti i giorni, decine di persone, decine di donne. In quali zone? Di quali zone sta parlando, scusi? Ma sa perfettamente, la Siria, sì, dove c'è Ankara, dove c'è la Russia, dove ci sono tutte le grandi potenze. E quindi? Noi parliamo, è un anno politico l'Europa, noi parliamo del burkini, sì, perché non possiamo parlare di altro. Sì, ma guardi muoiono in Siria anche in presenza degli Stati Uniti, che sono meno nano di noi. Non ho capito il suo ragionamento. Ragionamento che parliamo di sciocchezze. Parliamo questo di sciocchezze. È possibile, questo è possibile. Marco, è ha chiamato per dire questo? Ha chiamato per dire questo? Ha chiamato per dire questo? Ho parlato perché parliamo di cazzate. Parlate di cazzate e voi giornalisti siete tutti a dica lei una cosa che non è una cazzata, Marco. Dai, siamo tutti orecchie. Dica lei, però, in un minuto dica una cosa che non è una cazzata, se ce la fa. Tutta l'Europa, tutti, sì, i popoli dell'Europa sono stanchi. Qualsiasi paese, sì, avesse fatto il referendum, sarebbe uscito dall'Europa. Non è che soltanto la Gran Bretagna ha fatto cambio. Guardi Marco, in Gran Bretagna ha vinto il Brexit per un voto, quindi tutta l'Europa è metà dell'Europa, intanto metà della Gran Bretagna, quello che dice lei è il punto di vista di una metà della Gran Bretagna. Può darsi che se si voti in Italia oggi, se si votasse, ci sarebbe lo stesso risultato. Io continuo a non capire il collegamento tra la Siria e l'Europa, tra il burka e l'Europa politicamente morta. Ma me lo spiegherà un'altra volta, Marco. Io le ridò altri 30 secondi. Adesso, sì, parliamo di cazzate. Sì. Parliamo va di bene. Cazzate. Ciao Marco, ciao. Adesso è il momento di parlare di altre cazzate, però almeno in musica. Io non lo so se siano cazzate o no, però intanto sentiamo. Perché c'è una guerra, chi gli hanno preso la questo sua Mau Mau, gruppo piemontese, dovrebbe esserci anche in questa interpretazione l'interpretazione di altri cantanti particolari. Sono un gruppo di profughi che ha dato vita a un coro, si chiama il Coro Moro ed è organizzato da Luca Baraldo, che è qui con noi al telefono. Ciao Luca, buonasera. Ciao Ciao, ciao a tutti. Allora, sì, faccio una premessa. Tu sei, credo che sei in collegamento con tutti quasi i rappresentanti del coro, sbaglio? Sì, ce ne abbiamo tanti, 1, 2, 3, 4, 5, ne manca uno. Allora, io dico i nomi, anche se è come se dicessi i numeri a caso, perché sono nomi anche difficilmente pronunciabili. Alius Abali, Seikus Engore, Kassim Diarra, Bakan Sissoko. Poi c'è anche Laura Castelli, dirige l'orchestra, sembra di essere a Sanremo, il maestro Luca Baraldo. Allora, la mia premessa è questa. Sì. Comunque la si pensi, ascoltatori all'ascolto, sul tema dell'immigrazione, che siano troppi gli immigrati, che siano pochi, che si dia troppo facilmente il diritto d'asilo, eccetera, eccetera. Se l'integrazione qualche volta funziona, e quindi stiamo tutti un po' meglio di fronte al mondo che cambia, è anche merito di persone come Luca, che lo posso dire, perché con questo progetto stai cercando di fare che cosa? Di far cantare in piemontese. Sì, sì, non solo ci stiamo cercando, voglio dire che ci siamo riusciti. Il progetto è nato assolutamente per caso, ma ha funzionato, come dicono gli amici dell'Orage. Oltretutto in quel pezzo che facevate sentire lì, sì, di Mao, con Chi fugge, noi siamo presenti nel video come coro Moro e ci sono tutti i componenti del coro che ballano, cantano. Con allora, coro Moro, quando nasce? Nasce 2 anni fa, nel novembre del 2014. Ed è una cosa che credo che ti sarei inventato tu. Ma sì, ce la siamo inventati soprattutto per stare assieme ai ragazzi, perché abbiamo iniziato insegnando un po' di italiano, perché quando sono arrivati qua nessuno li guardava in nessuna maniera, insomma, proprio non venivano considerati. Allora, perché sappiamo che la lingua è uno dei passaggi fondamentali, no? Si dice prima di concedere il permesso di soggiorno o anche il diritto all'asilo bisogna che imparino le nostre regole, la nostra cultura, quantomeno la lingua. Voi siete andati oltre cercando di insegnargli addirittura insegnare italiano spontaneamente come volontari, sì, e poi insomma ci siamo arenati perché non siamo professori di italiano e abbiamo iniziato a cantare innanzitutto delle canzoni italiane in italiano proprio per insegnare la lingua, sì, e poi per una coincidenza strana, perché io e Laura stavamo imparando le canzoni qua delle valli, perché anche noi siamo dei rifugiati, insomma siamo arrivati anche noi da poco quassù in montagna, abitiamo in montagna un po' distante da Torino, stavamo orecchiando queste canzoni che si usano in queste parti e le cantavamo, insomma, e loro erano lì presenti. E piano piano, da cosa nasce cosa? Sì. Questo è un particolare, non da poco, il fatto che vi troviate nelle valli, perché io vorrei che chi ci ascolta cercasse di visualizzare un attimo, no? Di cosa stiamo parlando. Siamo nelle valli piemontesi. Valli grandi. Vicino alle montagne anche. Siamo in mezzo alle montagne, noi adesso, in questo momento siamo qua tutti in mezzo alle montagne. Ecco, quindi a temperatura anche piacevole, penso, a questo punto. E a voi viene in mente di cantare insieme a cittadini profughi, persone che vengono dalla Nigeria, da dove? Quali sono le nazionalità? Abbiamo qua un nigeriano, abbiamo un maliano, abbiamo un senegalese, un gambiano e un altro maliano. Ecco, canzoni in dialetto piemontese, canzoni di montagna. Quindi non so se avete presente di cosa stiamo parlando. Possiamo provare anche a intonare qualcosa? È possibile fare questa cosa qua? Dai, la facciamo così a cappella. Questa canzone si chiama La Bergera, parla di una pastorella. Magari non la facciamo tutta, facciamo due strofe. Pezzettino, sì, sì. Poi ci dice anche cosa dice, perché in dialetto non capiremo ovviamente nulla. Vai. Benissimo. All'ombretta del bosco della bergera l'endormia, all'ombretta del bosco della bergera. Vabbè ragazzi, un po' al telefono, no? Sì. Basta, ormai si sono fatti prendere la verve. Non li fermiamo più, non li fermiamo, il coro Moro. Luca, dico, no, un po' è venuta bene, intonatissimi, chiaramente non abbiamo capito una parola. Ci dici di cosa parla questa canzone? È semplicissima. Cosa avete detto? Tante canzoni tradizionali sono fatte apposta per essere cantate insieme, perciò sono molto semplici. Insomma, la bergera sarebbe la pastorella, ecco, che sta dormendo sotto un cespuglio e da lì passa un giovane francese molto bello, un très joli français, che le fa delle avance, no? Le dice: ma voi avete la febbre, forse vi serve una coperta. E lei dice: gentil galan, sei i vostri viaggi, cioè prego, andate pure per la vostra strada perché io sto bene dove sono. Sto bene qua dove sto. In questo momento esce fuori il pastorello che sente questa cosa che è nascosta in una baracca, esce fuori e lì sembra che succeda qualcosa di grave, in realtà lui esce fuori, prende il suo violino e incomincia a suonare e a ballare con la sua pastorella. E così la canzone finisce. In qualche modo è una canzone di immigrazione anche questo, cioè di incontro tra culture, no? Esattamente, esattamente. Quali sono, Luca, le storie? Adesso non possiamo raccontarle tutte, non so, una storia più significativa di uno dei ragazzi che è lì con te. Non so se, fra l'altro, se vogliono parlare qualcuno di loro. Qua abbiamo sei qui che può parlare. Lui ti può raccontare una storia. Appunto, lui è uno di quelli che ha richiesto i documenti, ma non li ha ottenuti. Comunque, qua te lo dirà lui. Ciao Seku, da dove vieni? Dal Gambia. Io arrivo dal Gambia dal 9 aprile 2014. Sì. Sì. Siamo qua in Val di Lancio, io abito proprio a Ceres. E come mai sei venuto in Italia? Cosa c'era nel tuo paese che ti ha fatto scappare? Per qualche anno, come 24 anni, ci stiamo vivendo da là. Sotto la dittatura, così. Allora le cose non vanno bene, io sono entrato nelle cose, nei politici, così, poi sono venuto qua. E chi hai lasciato, Seku? Chi hai lasciato in Gambia nel tuo paese? Parenti, amici? Ho mancato mio nonno, ho mancato mio papà e mia mamma è ancora lì. Sì. Luca? Sì, eccolo qua. È carino qua che ti può dire qualcosa. Mi passi un altro, passami un altro. Sentiamo un'altra storia. Chi è che parla? Aliu. Sì. Da dove vieni, Aliu? Io vengo dal Senegal. Aliu Sabali, come mai sei scappato dal tuo paese, sei venuto via? In realtà io ho lasciato il mio paese quando avevo 17 anni per dei motivi familiari. Perché? Perché a me piaceva di studiare, invece loro volevano mandarmi a scuola coranica. Volevano mandarti a scuola coranica e tu questo non lo volevi fare? E sei venuto in Italia tanti anni fa? Sì, tanti anni. No, prima in Mali. Dice, ero in Mali 2012, sì. Poi c'è stata una guerra civile, un casino, poi ho dovuto scappare per andare in Libia a cercare un lavoro, perché è stato dopo la guerra, il paese era in costruzione, sì, poi tanti giovani come me sono andati lì a lavorare. Ma di lì poi è l'inferno, sì. Non ci può più stare. Insomma, queste sono un po' le storie, Luca Baraldo. Sì. Potremmo stare qua ore e ore a raccontarle, ma non staremo qua ore e ore a raccontarle. Quello che ci interessava era dare l'idea di quello che state cercando di fare, una cosa non comune, divertente anche, immagino. E poi ci saranno anche problemi legali, perché alcuni di questi sono dei clandestini, di fatto, o no? Praticamente, di fatto, ne abbiamo solo uno con i documenti. Di fatto. E stiamo cercando di ottenere i documenti, sarebbe bellissimo quelli italiani, ma è molto difficile. Comunque, vorremmo anche cercare di ottenere i passaporti dei loro paesi di origine, perché abbiamo bisogno di girare, abbiamo dei progetti, vogliamo tornare in Africa, vogliamo tornare in Senegal, come è un gesto, cioè un viaggio, un come back to home, no? Cioè qualcosa che ritorna dopo aver creato qualcosa qua. Insomma, noi stiamo andando molto molto bene, siamo stati anche Expo, la chiusura. Sì, avete cantato in occasione della chiusura, dell'ultimo giorno di Expo. Io vorrei che fosse chiaro agli ascoltatori che, insomma, il motivo per cui abbiamo voluto sentirvi, stare con voi, è questo. È il fatto che, ripeto, comunque uno la pensi sul fatto dell'immigrazione, una volta che i fenomeni migratori ci stanno, come vogliamo dire, cadendo addosso, stanno arrivando nei nostri paesi, è anche grazie a storie come queste di Luca, di persone che cercano di creare un'integrazione, di creare che cosa, Luca? Un contesto di vivibilità. Evitare che le storie vadano a finire peggio di come potrebbero. È tanto quello, noi l'abbiamo fatto semplicemente perché sono dei ragazzi, sono arrivati qua e non c'era nessuno che li guardava. A me sembra una roba, io non so perché la gente vede differenza tra colore di pelle, o per noi erano dei ragazzi spauriti che sono arrivati qua con la tutina della Croce Rossa e le ciabatte infradita, ed era ottobre e faceva freddo, Li abbiamo visti lì che sono arrivati, in 18 i primi che sono arrivati, e io e Laura siamo stati i primi che ci siamo avvicinati. Poi si è creata pian piano una piccola rete, molto piccola devo dire, i nostri comuni ancora non è che ci vogliono tanto bene. Comunque noi siamo andati avanti, abbiamo fatto un sacco di cose, adesso abbiamo anche un nostro CD, è già pronto, lo potete trovare in acquisto se volete darci una mano su Amazon, iTunes, Google, si chiama Coro Moro. Sì. E io credo che il CD va benissimo, credo che la performance, cioè avete anche una pagina Facebook, quindi le vostre date sono pubbliche, la performance dal vivo credo che sia anche divertente. Grazie Luca Baraldo, grazie al Coro Moro per essere stati con noi. Chiudiamo con gli ascoltatori all'800 24 0024, abbiamo Nino che chiama da Modena, buonasera. Buonasera, io soltanto do un consiglio agli amici giornalisti, sì, sia italiani che islamici. Ne abbiamo bisogno mondi, di consigli, no? Sì, dacci una mano Nino. Per quanto riguarda, c'è una grande confusione, sì, perché non conoscono il Corano, né i giornalisti italiani né tantomeno quelli islamici. Vabbè, il consiglio è leggersi il Corano, di leggere la Sura 24, se c'hai qualcosa da scrivere, sì, versetto 31, e la Sura 33 versetto 59, e vedrete che confusione esiste. Il Corano non parla di burka, non parla di burkini e compagnia cantante. Diceva Socrate, sì, esistono due cose sole al mondo, la ignoranza e la conoscenza. Quindi l'ignoranza è la cattiveria e la conoscenza è il bene. Grazie Nino, bella questa di Socrate. Ho chiuso, però mi raccomando, di ai tuoi colleghi eccetera che prima di parlare di islamismo o contrasti tra io sono un ricercatore di storica di storia, dobbiamo tutti leggerci queste sure secondo te, vabbè vedremo, che dire. Grazie, buonasera, mi fanno cenno che dobbiamo chiudere, siamo già in ritardo? Mi sembrava di avere ancora qualche secondo, niente, ci riprenderemo domani, secondi, torniamo domani 18:20, si può fare. Ciao a tutti, buona serata da Alessio Maurizio, ciao.